Iniziamo a presentare questa settima ormai puntata di Poetici Libri. Abbiamo fatto il giro dell'anno. In realtà sono state 9 gli appuntamenti totali da giugno dell'anno scorso, con 7 appuntamenti di Poetici Libri, uno numero 0 e poi anche una puntata che è andata in onda per il Salone Off. Quindi siamo contenti di avere anche un'edizione estiva, anche direi piuttosto partecipata, con poeti che non arrivano soltanto dal Piemonte e dal Torino, ma anche dal resto d'Italia. Abbiamo poeti infatti da Roma e da Napoli, quindi la caratteristica di Poetici Libri, come tu potrai anche confermare, è quella di riuscire ad andare oltre, ecco, la sua zona di appartenenza, la zona in cui è nato, no? Torino, quindi ha la capacità di coinvolgere e richiamare anche altre case editrici di altre regioni. Allora, è anche una puntata un po' di bilancio, no? Che come diceva Max prima, dopo che essere positivo, per l'anno prossimo della serie, come uso dire in questi casi, qui lo dico e qui lo nego, però comunque l'ambizione sarebbe quella di riuscire, noi quest'anno abbiamo fatto un appuntamento di Poetici Libri qui in Belgrado. L'anno prossimo l'ambizione sarebbe quella di riuscire ad inserire uno o più appuntamenti di Poetici Libri all'interno del cartellone del Salone giù a partire dal Lingotto. Vedremo, no, che cosa si riuscirà a fare. Ovviamente chi di voi segue un po' le vicende più istituzionali saprà che purtroppo in questo momento non abbiamo neanche interlocutori, perché è ancora tutto in aria, però insomma. Credo che anche l'anno prossimo la città, al di là di tutto, questa scommessa la vincerà. Il bilancio, che cosa, insomma, da libraio, quindi guardando le richieste e l'attenzione che c'è stata ai libri, cosa dice? Dice attenzione alle antologie. Quindi la prima antologia che abbiamo presentato, l'abbiamo presentata con Luigi Cannillo, era questo Passione Poesia. E appunto ve la segnalo perché c'è stato un bel interesse. La seconda antologia che abbiamo presentato è curata da Bianca Sorrentino, tra l'altro, insomma, tra parentesi, comunque ne abbiamo vendute 2 copie, che per voi che fate e comprate poesie sapete bene che è un ottimo risultato, al centrale, nel foyer del centrale di via Carlo Alberto, quindi insomma su un pubblico che non era assolutamente, era arrivato lì per vedersi il film e si è sfilato il libro. E ultima, ma sicuramente quella anche più fresca e interessante, perché ha anche un bel rapporto, a mio modestissimo parere, qualità-prezzo, nel senso che, no, è un'antologia a 10 euro, un formato inventato da un editore, da un marchio editoriale che si chiama Tranquida, che ha chiuso e che è stato rilevato da Pagina 1 Edizioni e curata da, in questo caso, da Max. Qui l'idea è quella tematica, che è anche questa, mi pare un'idea carina, insomma, no? Vabbè, siamo pieni di antologie sulle poesie d'amore, fare le poesie per un compleanno piuttosto che per il Natale, se ben capito, no? Dico, comunque, insomma, per dei temi un po' diversi dal solito, mi pare una bella idea. Quindi questo è il mio modestissimo contributo di bilancio, quindi bene, avanti così, insomma, no? Dico, e credo che tra settembre e ottobre potremo rimetterci in marcia piacevolmente. Qui io ripeterei un po' come funziona Poetici Libri. Sì. Poetici Libri nasce in realtà come un format a sé stante in cui l'autore ha 15 minuti per presentare il suo libro. Chiaramente i conduttori hanno, ecco, fanno una piccola introduzione. Gli autori sono autori scelti, non sono, ecco, semplicemente invitati, ecco, così a caso. Sono autori scelti e però hanno un tempo breve per poter presentare il proprio lavoro, quindi in maniera dialogica, informale, anche amicale direi, e per leggere qualche poesia. Quindi una presentazione, se vogliamo, classica, però in un tempo più breve. Ecco, questo dà la possibilità anche al pubblico di sentire delle voci, di leggere dei poeti diversi, quindi anche di poter scegliere un libro da regalare o da portare a casa. Allora, presentiamo gli autori che saranno, sì, che sono qui con noi, dimmi. Come libreria, questa cosa che sta dicendo Max della serie Torniamo a leggere, esatto, è una cosa che ci ha dato una spinta anche a tornare a fare iniziative di lettura, no, nelle scuole, e, oppure insomma con le scuole, dico, che sono venute in libreria, e a mio modestissimo parere, per qualsiasi ordine di scuola, cioè anche per le superiori, cioè tornare al piacere della parola letta, perché comunque la parola letta è intanto uno scambio, perché vuol dire tu leggi, io ascolto, e seconda cosa è una cosa che si può scambiare, nel senso che io posso, no, restituirti leggendo io a mia volta e tu ascolti, e terza cosa appunto è crea immediatamente un movimento. La possibilità che dà Poetici Libri è quella di incontrare degli autori appunto e di riavvicinare il poeta alla libreria. Ecco, i poeti di solito sono, rispetto ai narratori, sono più itineranti rispetto ai narratori, sì, più distanti, ecco, dai luoghi, ecco, deputati, ecco, alla, insomma, alla scelta e alla vendita, ecco, dei libri. Noi tentiamo di riavvicinare questi due mondi. Allora, una scelta di 4 poeti per in questo caso, di libri per la vostra estate. Iniziamo con un poeta torinese noto e pubblicato da Passigli, che è qui con noi, è Riccardo Olivieri, che ha pubblicato per Passigli A quale ritmo, per quale regnante, che è questo libro, ecco, che ritroverete nel tavolo appunto dei libri e che potrete sfogliare e scegliere. Poi vi presenteremo l'autore uno per uno. Io come siamo noi soliti, come consuetudine, passo il libro nelle mani del libraio, perché lui così ne propizia la vendita col suo tocco magico. E poi abbiamo Antonio Di Lorenzo, giovane autore casertano, che ha un suo libro di esordio che si intitola Tutte le anime perse, piccolo editore che si chiama La strada per Babilonia, che è questo libro qui, anche lui molto attivo, con anche una come curatrice che si chiama Maria Pia Dell'Olmo, dico bene? Esatto, Maria Pia Dell'Olmo, che ha passato appunto a lei a consigliarmi, ecco, questo autore, che ha una mia nota critica tra l'altro all'interno di questo testo. Poi abbiamo Bartolomeo Di Giovanni, ecco, che io conobbi tanti anni fa anche per i suoi scritti filosofici, e che presenta un libro, devo dire, di valore, che si intitola Fotosintesi itinerante. Ecco, anche lui è qui con noi, in questo caso di origine siciliana ma viene da Roma. Ecco, sarà qui con noi anche Valentina Petrini, un artista che è qui in prima fila, che, ecco, con la sua penna, ecco, abbozzerà le figure dei presenti. E infine una poetessa torinese, la quale abbiamo già presentato lo stesso libro assieme, Valeria Bianchimian, con Favole svelte, un libro edito dalla torinese Golem, ecco. Valeria è anche molto attiva come performer e quindi saprà, ecco, raccontarvi, ecco, che cosa riserva questo libro, ecco, che è già stato presentato altre volte in città, ecco, e quindi alcuni di voi già conosceranno. Intanto siamo in attesa delle sue prossime pubblicazioni. Allora, li mettiamo qui intanto e iniziamo con Riccardo Olivieri e anche con Valentina Colonna, che è invitato, ecco, a parlare di Riccardo. In realtà Riccardo l'ho conosciuto e l'ho ascoltato il 21 marzo in occasione della, appunto, festa mondiale della poesia all'Università di Torino, dove Valentina aveva organizzato appunto un convegno, e quindi mi sembra la persona più adatta proprio per parlare di lui. Un poeta, insomma, veramente di valore secondo me. Non lo conosco così in maniera approfondita, ecco, però è un vero piacere, ecco, avvicinarsi, ecco, alla lettura, ecco, all'ascolto, come dicevamo, di una voce nuova. Quindi vi invito a venire qui e anche inviterei a fare un applauso ai presenti che rompono le ghiacce. Prego. Allora, di solito, ecco, il Riccardo Olivieri è autore di più libri, ecco, mi pare in gran parte editi da Passigli, se non erro. Questi tre. Esatto, e questo alla presentazione di Giuseppe Conte. Lascio la parola a Valentina per l'introduzione anche dell'autore. Dunque, intanto grazie Max per l'ospitalità. Le mie saranno parole veramente rapide e credo abbastanza superflue, perché insomma, la poesia di Riccardo va ascoltata, quindi spiegherà meglio lui con la sua lettura. Riccardo è un caro amico, intanto, che appunto ho avuto la fortuna di conoscere alcuni anni fa. E sì, qui nel panorama torinese si distingue per la sua assoluta discrezione. Lui è un uomo riservatissimo che però porta la poesia con una grande nobiltà. Non è uno dei poeti appariscenti del panorama nazionale, però è un poeta che è stimato, è molto stimato, perché ha una qualità che non ha bisogno, ecco, di essere amplificata, perché ha una sua luce che brilla da sola. Adesso arrivo. Ho appena iniziato. Questo libro è un libro d'amore, sostanzialmente. È un libro che attraversa l'amore dall'inizio alla fine in tante declinazioni. È un libro degli affetti che parte dalla figura del figlio, che è centrale. Se io ho avuto la fortuna di ascoltare Riccardo diverse volte, e quindi penso che anche ascoltare la poesia sia un elemento molto importante, affascinante, per conoscere ancora di più il testo e conoscere qualcosa di più del poeta stesso. Ed è questo libro un percorso che parte dal figlio, attraversa la madre e si richiude col padre, quindi attraversa delle figure familiari, tutte attraverso una sorta di canzoniere quasi epistolare, cioè c'è un aspetto epistolare molto forte in questo libro, perché lui dice esplicitamente, lo dice anche Giuseppe Conte nella prefazione, che le lettere d'amore sono l'unico motivo vero, no? Cioè l'unica soluzione. Lui dice: non c'è altra formula per fare la rivoluzione che scrivere ogni volta lettere d'amore. Ed è questo il punto, secondo me, centrale in questo libro. Lui scrive delle bellissime lettere d'amore che sono intrise d'amore. Se ogni tanto, secondo me, c'è un richiamo a Luzzi, io ci vedo Luzzi. Io ricordo quella volta al Salone del Libro, tanti anni fa, quando c'è stato l'anniversario della noi 10 anni, della morte di Luzzi, e leggevamo, ognuno faceva un omaggio a Luzzi, e io ricordo che tu avevi letto un testo sul lupo. Che adesso vi leggiamo. Esatto, fantastico. Ed è presente in questo libro, e oltre al lupo, che ovviamente torna sia nella poesia di Luzzi che nella poesia di Riccardo, c'è anche un modo di andare a di comporre la poesia che talvolta ricorda alcuni periodi luziani, ma anche il concetto proprio di amore come elemento fondamentale, che però non è solo un amore, è un amore che viene raccontato attraverso una lettera, quindi che viene detto, che si afferma, è un amore che è affermazione. Ricorda appunto anche una poetica che appunto era quella di Luzzi, quando diceva: amare, questo sì, ti parifica il mondo. E questo sì è un elemento importante in questo libro, perché la lettera torna anche durante tutto questo viaggio. C'è una lettera al centro proprio che è bellissima, inizia: cara Roberta, Rodi, mamma, amore, tesoro, amore, amore mio. Quindi lui non ha paura di usare un termine che è delicatissimo come quello che è amore. In poesia lo fa in modo egregio, che sicuramente è una sfida non da poco, portare in poesia l'amore in questo modo, perché ovviamente è delicatissimo farlo non in modo ridondante, in modo autentico, pulito, e la sua poesia è pulita perché non, è come se non dicesse mai troppo, ha un... ha una pulizia del verso bellissima e anche una grande musicalità, in certi... ecco, poi musicalità è una parola... ha una grande musica, ecco. Se lo dici tu, vale doppio. No, no, è ben poco. Però, sì, la sua scrittura, che lui dice appunto bisogna scrivere lettere d'amore, quello è un elemento appunto che ritorna, si fa anche proprio lettera nel momento in cui lui inizia proprio... i testi con una dedica che è, come ad esempio, caro papà, che è determinante e guida il lettore in lettere che sono un'apertura anche alla confessione, sono vere e proprie confessioni. La poesia che leggi sempre, almeno che io ascolto sempre, che dedichi a tuo padre, che verso in conclusione, se non erro, comunque verso la fine. È forse il momento in cui quindi c'è il ricongiungimento, per cui dal percorso del figlio, che forse uno, nelle poesie al figlio ci sono, secondo me, dei punti tra i più belli del libro, perché forse la massima veramente declinazione dell'amore, e forse sono tra le, è un libro che è tutto ben riuscito, però forse i punti più emozionanti, cioè che proprio colpiscono come dei flash, perché capita ovviamente di leggere una bella poesia, ma a volte di essere sconvolti dal testo, e questo non capita sempre, e nei testi dedicati al figlio sicuramente questo avviene, perché passa proprio l'amore che c'è dentro, oltre alla capacità proprio tecnica di scrittura che ha lui, è proprio un qualcosa che arriva immediatamente e quindi è molto forte, però si ricongiunge al padre, dove quindi lui si fa padre e lui si fa allo stesso tempo non solo padre, si fa padre del padre, si fa, è tutto un viaggio, quindi è un viaggio nell'amore familiare e non solo, perché ha delle punte anche di ironia lieve, cioè io ricordo la mensa aziendale, che è un testo sottile ma molto efficace, breve, ma che ha una punta anche ironica, in una diciamo in un tono molto secco, quindi passa dall'estrema dolcezza anche a momenti più critici forse verso questa realtà di cui però è innamorato. Ah, sicuramente. Tanto grazie Valentina, adesso immagino che toccherà a me. Grazie. Noi siamo diventati amici dopo la poesia, cioè non è che fossimo amici prima, ma è venuto poi per caso, volevo premetterlo. Quello che hai detto mi torna tutto, adesso bisogna vedere se torna anche a loro. Io non sono un uomo di lettere, assolutamente, perché vengo da studi scientifici, poi all'università fa economia, quindi... E la poesia mi è arrivata addosso, questa è l'unica cosa che voglio raccontare di me, perché è una storia vera che mi piace dire, perché è successo tutto per caso. Io al liceo pensavo alle ragazze, alle moto, e invece a un certo punto, un giorno a Sanremo, avevo 19 anni, in realtà alla maturità avevo portato fisica come scientifico, ma anche i poeti francesi, quindi anche letteratura, però fregavo poco. A un certo punto io sono di Sanremo e mio nonno, per una storia che non c'entra niente con la poesia, con un fatto casuale di librerie, di cose, ha lasciato il Meridiano di Quasimodo sul tavolo e la settimana dopo mio nonno è morto. Quindi io per caso, per rispetto a lui, vedo sta roba, lo apro e leggo la prima poesia della prima raccolta del Subito Sera di Quasimodo. Cosa è successo? Quel momento lì per me è adesso qui, non è cambiato niente, cioè da quel momento io sono partito militare, il militare ha cominciato a leggermi da solo tutto Montale, Quasimodo, mentre ci scambiavamo tutto moto, quattro ruote, io mi leggevo Ungaretti, Quasimodo, Montale, così. E questa roba mi ha accompagnato per tutta la vita e me la penso anche salvata, nel senso che probabilmente io non sono diventato matto, e non sono matto, almeno sono soltanto un neurotico come tanti, grazie alla poesia, all'effetto salvifico che mi fa leggere la buona poesia, non la mia, quella degli altri. Parlavamo di voi prima, per esempio vi faccio un nome, sto leggendo un bravissimo poeta di Casagrande che si chiama Alberto Nessi, che è un uomo di over 70, che vi consiglio di leggere. Il libro si intitola Ladro di Minuzie ed è tutta la sua poesia degli ultimi 20-30 anni ed è straordinario, se vi capita. Adesso, visto che hai detto, leggo due o tre robe e poi no. Allora, parlavamo di un lupo. Sì, fin da bambino mi succedeva che io vedevo un lupo e mi trovavo allo specchio, c'era una specie di... E questa cosa me la porto sempre dietro. Tutte le volte che guardo la foto di un lupo o che vedo alla televisione un'immagine, mi sento a casa. E questa cosa, sarà del cane, del mio, non lo so. Quindi, a un certo punto... Vabbè, e quindi mi porto dietro questa cosa qua che fa così. Il lupo è un animale fedele, capace di guarire notti intatte e inascoltate, ma convinto, soffrire certo, anche per amore, dilaniare carne in causa e piangere durante, respirare l'aria fatta sangue e non prendere più sonno. Il lupo sente tutto il polmone nella corsa, il terreno prendere l'appoggio sulle belle zampe, il ventre atterrarsi aggioiato sul cumulo di neve e, tra il fiato, attendere compagno. Il lupo è un animale sociale, lo si sa, ma niente peggio di quei documentari sopra i lupi, fatti di leggi, distinzioni, regole del branco. Un lupo è altro. Silenzio, amore, zampe. Adesso, se me lo permettete, vi porto all'Eurospin, nel senso che mio papà è morto nel 2015 e andava sempre a fare la spesa all'Eurospin. E un giorno, per caso, sono finito a prendere l'acqua, perché mancava l'acqua a casa, tornato da lavoro, dove andava lui, non andavo mai a fare la spesa lì. E facendo la spesa, quando sono arrivato alle casse, mi sono accorto che quello era il suo percorso e che dopo le casse sulla sinistra, alle macchinette dei 50 cents del caffè, quelle come dire, che ci sono in queste catene qua di Eurospin, lui stava, era già vedovo da 3-4 anni, faceva la sua spesa, poi si metteva lì, pigliava il caffè e con una santissima pazienza queste giovani cassiere, lui gliela contava, loro parlavano con lui e io sono stato lui in quel momento. E fa così. Io non so chi di voi si ricorda mio padre. Io sono mio padre, che passa certe giornate all'Eurospin, piene d'acqua dal cielo, perché è dicembre inoltrato a Torino. Neve non ne arriva ancora, ma si sente il suo lungo auspicio che farà l'aria nuova. Mentre lui, mio padre, io, è lì tra i neon che non chiudono, gli stranieri, gli italiani con il SUV che non spendono, noi tutti impauperiti nel gelo. Ma lui si accende con il caffè dei 50 cents all'angolo più solo, dopo le casse, dove la gente non passa, con la mente è già a casa, nel SUV, e insiste, fa il gadano sdentato con tutte le cassiere che lo aiutano, nella parola, nello sguardo pietoso di giovani madri. E io, lui, vado in questa direzione. Stasera occupo il suo posto all'angolo. Proverò a dire qualcosa alle donne dalla macchinetta spenta, con i sense tra le mani. Non saprò mai essere lui. Grazie. Sono 25 anni che io e la mia famiglia, prima due, poi tre, passiamo la nostra estate in Catalogna, un po' a metà strada tra la Francia e Barcellona, dove tra l'altro l'anno scorso, proprio in uno dei paesi vicino, in uno dei paesi dove erano stati radicalizzati i ragazzi che hanno fatto, alcuni di quelli che hanno fatto quella roba a Barcellona, poi al limite di Legonato. E lì, um, io ho ritrovato, faccio breve, io lavoro a Mirafiori e tra le sbarre famose del palazzone di Mirafiori, che sembra un carcere da fuori anche da dentro a volte, io ho un passerotto, adesso ho cambiato ufficio, ma veniva questo passero che si era abituato al mio faccione, veniva lì e mentre io lavoravo lui stava lì tranquillo, poi arrivava qualcuno per una riunione e se ne andava, però con me era tranquillo. Un'estate io ho avuto l'impressione, arrivato in Catalogna, nella caffetteria dove ci fermiamo, appena arrivato, una specie di rito, facciamo colazione o prendiamo un caffè in questo prato di Trifogli dove c'è questo signore che si chiama Juan, non Juan perché loro si arrabbiano se dice Juan, dicono Juan in catalano, e che ci accoglie ogni anno, ho avuto l'impressione di vedere il mio passero che era tornato, era venuto anche lui e aveva fatto famiglia. Questa è stata l'impressione che ho avuto. E quindi parlerei di passeri operai, pájaros obreros. Pájaros obreros, otra vez han llegado. Sono tornati, passeri operai, rieccoli al lavoro. Con lo spirito immenso di un karma, colpiscono la caffetteria Olimpia. Dicono sfacciatamente che questa mattina, qui, la vita nuovamente ha il suo inizio. Ora non dirmi di te, non mi parlare delle tue carte stravolte, non aggiungere niente a questo pensiero di passero operaio. Han llegado, pájaros obreros. Sono tornati, passeri operai. Come i tre maghi di Rodari, sanno aggiustare ogni cosa, entrano ed escono dai tetti come rondini se serve, bevono l'acqua dai nostri bicchieri e ci dicono da non molto in alto, alle volte dal piatto prato dei Trifogli, respira e corri. Non temere nulla. Grazie. Hai parlato di Alberto. Allora, qui ci sono delle tante poesie per mio figlio, un po' meno che quello prima, difesa dei sensibili, sempre di passivo. Ma ve ne leggo una che non c'è lì. Perdonatemi. È questa piccola antologia che è uscita adesso su... Io vengo da Sanremo, sono un torinese acquisito. Dove vado lì? In Catalogna c'è una spiaggia che si chiama Sa Conca, che in castellano sarebbe La Conca, la conca, perché ha forma di conca, non tanto in questo senso, ma perché scava come una conchiglia. E infatti è una spiaggia pericolosa perché ti risucchia quando c'è il mare forte, però è bellissima. Un giorno lui aveva 4 anni, io me lo sono visto andare a fare il bagno, stavo dietro. E l'ho visto di schiena che entrava nell'acqua. E ho visto questo. D'acqua. Placcia de Sa Conca, con la tua pietà immensa accogli tutti. Accogli anche Nino Alberto, Cico Conchiglia, oggi nel suo bagno infinito. Per l'inizio, non la fine, di una serie salata di sogni. Accoglilo. Fonte, alga, conca, profumo, sei vento. Così il tuo sale lo mantenga, così il tuo sale che lo culla e lo trasforma, lo leviga, acqua. Sa conca pietosa di tutte le membra, pronta per i miei orecchi di vecchio la tua eco, attenta alla dradattimi, donna che non è distratta, onda. Sa conca cuore blu, specchio convesso, anima che brucia, la mia vecchia mano salata e aperta nella tua grande sangue. Grazie. Allora, ritagliamo intanto il libro, a quale ritmo, per quale regnante vi ritrovate nel nostro spazio libri, che tra l'altro è anche uno spazio permanente, nel senso che lo scaffale rimarrà. Avete delle domande, delle idee, suggerimenti, qualcosa che vi è venuto in mente rispetto a quello che abbiamo detto o che volete chiedere all'autore? Ah, che bello, non mi ricordo, c'è anche questa parte, sì, bella. Questa è la parte, diciamo, prego. Non sono le solite poesie ritmate, mi piacciono perché hanno questa forma dialogica. Poi c'è una cosa che noto però noi italiani, che abbiamo sempre forse il vizio di dire leggo la poesia degli altri, leggo, ma credi che la tua non sia un'altra poesia che susciti grandi emozioni? A me le ha date, quindi sei degno di essere di, anche di automenzionarti poeta, perché a volte diciamo, lo sappiamo, sì, sì, noi italiani siamo di finti, umili, non è vero. A me piace quando dico scriviamo qualcosa insieme, facciamo qualcosa insieme. Certo. Quindi è anche una forma di, c'è quella forma di speranza tra l'Italia, la Spagna, questo bilinguismo nelle poesie che mi appartiene, perché un altro anno hanno tradotto il libro a Città del Messico, quindi bene, vorrei portare Max con me a Città del Messico, all'università. Vedo però anche in rumeno, anche in ungherese, ho girato, vedo però che in Italia facciamo sempre, io non sono un poeta, scrivo, mi occupo di poesie. No, ma io non dico questo. E invece no, mi è piaciuto il però intervento, mi piace che come è arrivata la poesia, con Quasimodo, con Montale. Certo. Io preferisco Ungaretti, però va bene anche Quasimodo e Montale, ma ti ho conosciuto e devo dire che in giro ci siamo, diciamolo, siamo bei poeti viventi, no? Abbiamo iniziato con Alda Merini, chissà con chi finiremo. Grazie. Bisogna anche lasciar far morire il passato. Grazie. Grazie a te. Bene. Prego. Io ho sentito nei tuoi bellissimi versi dell'ultimo libro una trascendenza quasi religiosa, no? Che però va verso gli effetti ovviamente più grossi, più cari. Niente, semplicissimo, volevo chiederti questo regnante del titolo, se ha un'accezione religiosa. Ok, allora, dunque, quel titolo lì in realtà che cos'è? È venuto per caso, perché il libro prima, tra l'altro me l'aveva messo in copertina, in quella gli ultimi versi della poesia di copertina del precedente finiscono proprio così, no? È una roba tipo, anche questa mano sinistra che cede si chiede a quale ritmo, per quale regnante. Quel pezzo lì mi è rimasto, si è ficcato dentro, e poi tempo fa, con Quarta Rete, che è una rete locale qua di Torino, avevamo fatto un giro per Torino, perché siccome nell'altro libro ci sono i quadri torinesi, quindi sono tutti i punti di Torino della mia, ognuno c'ha la sua Torino, e io giravo Torino e dietro c'era la voce che leggeva Europa, e l'avevamo chiamato così, a quale ritmo, per quale regnante, e quindi è rimasto e l'ho messo. La risposta però vera alla tua domanda è una specie di domanda un po' amara senza punto interrogativo. Quel regnante lì può essere, se vuoi, può essere quello o può essere per quale padrone. Un po' banalizzando, però poi alla fine la sostanza è quella, è un po' il ma chi ce lo fa fare tutto questo tipo di fa tutto, no? Poi la risposta io non la trovo la sua, io la trovo quando guardo negli occhi mio figlio, allora dico sì, va tutto bene, ha senso tutta questa fatica e tutto quello che c'è stato, sono arrivato fin qui per guardare, allora va bene. Grazie, allora ricordo il libro, ce ne potete sfogliare poi la copia nel nostro scaffale. Allora, il libro si intitola Quale ritmo per quale regnante, edito da Passigli, e l'autore ovviamente è Riccardo Olivieri. Ricordo anche che Riccardo è stato appunto inserito in Ossigeno Nascente, che è un progetto dell'Università di Bologna. Sapete che ogni tanto si cerca di mappare la situazione dei poeti italiani contemporanei, e quindi fa parte insomma dei poeti insomma riconosciuti insomma come poeti italiani contemporanei da questa ricerca dell'università. Sì, un lavoro che da cosa mi ha raccontato, l'ho scoperto perché me l'hanno detto dopo, è un lavoro che ha fatto, pare insomma, anche con un certo criterio, e quindi ovviamente mi ha fatto piacere. Fa piacere anche a noi, e ti ringraziamo. Grazie. Intanto chiamo Antonio Di Lorenzo. Con quest'opera che si intitola Tutte le anime perse, accomodati. Buonasera a tutti. Direttamente da Caserta, giovane poeta, e la tua opera d'esordio. Sì, vero? L'opera d'esordio. L'opera d'esordio che al solito segnerà tutta la tua carriera. Ecco. Sulle opere di esordio, chiaramente, insomma, abbiamo subito uno sguardo sulla giovane poeta. Quanti anni hai? 23. Non te l'ho neanche mai chiesto, 23 anni. Molto attivo nel casertano, in campagna, anche come performer, e che ha pubblicato in questa appunto collana appunto della diretta da Maria Pia dell'Omo. Allora vi leggo in realtà la mia brevissima nota, nel senso che Maria Pia mi mandò il suo manoscritto e mi chiese: ma hai voglia di scrivere qualcosa? Io dissi no, in automatico non scrivo nulla, mi fa così in automatico, però se insomma la scrittura di Antonio mi trasmette in qualche modo qualcosa, sono felice di scrivere una nota, qualcosa che mi sembra che è accaduta. Allora, Antonio Di Lorenzo, un giovane promettente poeta, il suo Tutte le anime perse è una raccolta in cui i versi si susseguono, si formano, si trasformano e viaggiano. E proprio la dimensione del viaggio è quella che fa respirare questa scrittura, la sua fortuna e la sua apertura. Infatti la poesia d'esordio si intitola Se il mio zaino potesse parlare e definisce subito il teatro in cui va in scena il lavoro del poeta. Riecheggia Walt Whitman in questi versi in cui la libertà e la vita sono motivi costanti. Infatti dice: in silenzio impotente ascolto la vita, e in cui si passa in un soffio dal microscopico al macroscopico. Insomma, c'è questa sua capacità di passare dal particolare più minuto, dal focus, allargare subito la visione. Di Lorenzo non teme i passaggi da una città all'altra, da una citazione all'altra, perché ci sono moltissime citazioni, dalla musica al cinema, in un sincretismo in cui i personaggi del cinema diventano addirittura delle maschere di quelli incontrati durante i viaggi. E sono proprio i personaggi ritrovati ad apparire come anime perse. Infatti il titolo è appunto Tutte le anime perse. Apparentemente sono slegate da un esserci e sono creature che sono arenate, ecco, almeno così mi è parso di percepire, ma poi direi tu cosa, se corrisponde alla tua visione di autore, creature che sono arenate negli interstizi del mondo. E se ritroviamo Walt Whitman in queste traiettorie americane, non manca certo la Big Generation, con tutto il suo on the road, il suo côté battuto e beato, ecco questa caratteristica proprio della Big Generation, cioè la beatitudine, ma anche ecco, la condizione di essere degli sconfitti. Di Lorenzo, nato poeta ad Agropoli, in riva al mare, lui lo dichiara nella sua poesia, che è un atto, secondo me, anche disarmante di sincerità. Un poeta. Io sono nato poeta ad Agropoli. Diciamo, sì, ognuno ha il suo luogo poetico, no? Quindi si muove e si proietta altrove con la missione di ascoltare The Sound of Life, quindi il suono, insomma, della vita, sempre con quell'energia che Nettuno pare avergli donato. È una fortuna, comunque, nascere in riva al mare. Gli scogli però ci sono, e sono quelli dell'infelicità ai quali, ecco, la natura umana non può sfuggire. Quindi dalla Norvegia al Grand Canyon, Di Lorenzo ha una scrittura mobile, in fase di formazione, un giovane autore da non perdere di vista, secondo me. Quindi adesso ascolteremo alcuni suoi versi, che tra l'altro mi pare abbiano anche un ottimo impatto performativo. Ti lascio. Grazie, allora innanzitutto ti ringrazio per avermi invitato qui a Poetici Libri e anche per aver fatto l'introduzione critica all'opera. Devo dire che la prima volta che l'ho letta, insomma, è stato molto emozionante, insomma, vedere che hai sentito degli echi di Walt Whitman e dei poeti della Big Generation. E devo dire che gran parte di questi scritti sono nati on the road, perché la mia è una scrittura che nasce come idea di poesia in riva al mare. Io vivo a Caserta, ma sono nato in una città di mare per caso, che è Salerno, e ho avuto la fortuna di passare tante estati in riva al mare e trovare questo mio angolo di ispirazione e di poesia, che è la scogliera del porto di Agropoli, che è una cittadina in provincia di Salerno dove abbiamo un piccolo appartamentino a mare. E lì sono nati i miei primi versi, ed è un po' il luogo in cui mi rifugio tutte le volte che ho bisogno di ascoltare come scrive anche Max, The Sound of Life. Questo sound che ho voluto lasciare in inglese anche nella raccolta, perché al contrario dell'italiano, l'inglese è una lingua un po' meno precisa nella definizione dei sostantivi. Sound in inglese non ci dice se è un suono bello o brutto, non ci dice se è una melodia, se è qualcosa che dà fastidio, se ci irrita, se è piacevole. Ed è questo il suono effettivamente della vita, perché chi può dire se la vita ha un suono bello o brutto quando ci si manifesta? Eppure c'è questa vibrazione, questa cosa che noi riusciamo a captare e che io cerco di tradurre in versi nella maniera migliore possibile. La cosa bella della poesia che mi spinge a provare questa strada è l'idea, come scrivo nell'introduzione, insomma, la prima poesia è quella sullo zaino, però io ci ho tenuto particolarmente a fare un'introduzione che ho chiamato Dichiarazioni di semplicità da parte dell'autore. Io ho avuto la fortuna di viaggiare molto nel nord Europa, di conoscere tanti artisti e tanti autori nord europei, e ce n'è uno che si chiama Karl Ove Knausgård, che ha scritto una cosa secondo me illuminante. Lui dice: la scrittura è un processo di distruzione, perché si tratta di adattare il nostro pensiero in una forma codificata quale la scrittura. Quindi questo significa che noi perdiamo sicuramente l'ineffabile che c'è nella formulazione del nostro pensiero, e quindi la spinta che da un lato ci permette di essere artisti e di provare la via della scrittura è l'idea di rendere quanto più vicino possibile al pensato la nostra scrittura, ma è allo stesso tempo quell'elemento che ci impedirà di raggiungere un'ideale perfezione. Quindi è da un lato la spinta a scrivere, dall'altra la consapevolezza, come poi Max ha ben definito nell'introduzione, della non felicità di tutti i protagonisti di quest'opera, che sanno di non poter arrivare effettivamente alla perfezione. E sono anime perse, perché sono anime lontane, sono anime che mi hanno dato qualcosa, ma sono anime perse nella loro ricerca, che sanno non poter far mai arrivare a conclusione. E io direi magari di cominciare a leggere qualcosa. Okay. E proverò magari a fare anche una piccola performance. Con la poesia dello zaino, che è quella che apre la raccolta, ed è, io dico che è un atto d'amore, perché in tutti i miei viaggi io ho visitato più di 25 paesi europei e qualcuno anche al di fuori, c'è sempre stato il mio zaino che mi ha accompagnato in tutte le avventure. L'ispirazione è nata in Danimarca lo scorso ottobre. Stavamo ad Aarhus, che quest'anno è stata la capitale europea della cultura, e eravamo fuori a un bar. Io entro per prendere un caffè, comincia a piovere, c'è il mio zaino fuori sul tavolo che si bagnava, e io sono uscito con il caffè bello caldo in mano, ho ascoltato questo suono della vita che mi diceva: se questo zaino potesse parlare, che cosa ti direbbe in questo momento? E con questa poesia sono arrivato alle finali regionali di Slam Poetry della Campania quest'anno, quindi proverò a performarla. Intanto un applauso, perché 23 anni sei giovane. Grazie. 23 anni. Se il mio zaino potesse parlare, di quante polveri e ostelli racconterebbe, di ogni pullman inseguito e mancato, di luci del nord nei cieli scovate. Se il mio zaino potesse parlare, di quanto spesso io l'ho maltrattato, direbbe che l'ho costretto a scomode stive di aerei e ancor più stretti scompartimenti di treni, schiacciato da pesanti colleghi e da borsette di mille colori. Se il mio zaino potesse parlare, sfidiamolo un po', se il mio zaino potesse parlare, favellerebbe in danese. Jeg har her at presentere min bok. Du elsker dig? Si incazzerebbe in gaelico. Nikoskon, Grian Graf Adorart. Esulterebbe in basco. Sortion, sortion, avvescati. Bravo, però io lo sfiderei ancora. Idiomi latini. Te amo, te jubes, te chiero, je t'aime. Canzoni vichinghe. Kanshe comer kongen, kanshe riden de til est. Saluti persiani. Te shekur marabà. Forse la lingua degli indiani Navajo. Piramia. Sarebbe campione d'ascolto passivo e non varrebbe l'inglese per me universale. Putain merde, je parle pas l'anglais. Se il mio zaino potesse parlare di quante volte ho tirato la sua cinghia di cuoio, di tutte le volte che è stato alla mia schiena impiccato, perché vedete, ho sceso tenendolo in braccio almeno 1 milione di scale, ho scavalcato 200 colline, ho percorso migliaia di strade. Quando si chiuderà questo ciclo, sarà per me il vuoto ad ogni gradino. Ma eccolo, lo vedo brillare lì sotto la pioggia di Oos e penso che meriterebbe davvero un destino migliore d'essere grillo parlante di un Pinocchio viaggiatore che se non vede non crede, eh? E ad ogni fatica gli chiede un ulteriore piccolo sforzo. Ad ogni fatica promette che non ci sarà una prossima volta. Ma se una notte d'inverno quel viaggiatore bisognasse d'amore, lui non mancherebbe d'essere spalla su cui confossarsi, caldo cuscino alle porte di un gate, di un aeroporto che nessuno ricorda. Perché vedete, chiuderò con un segreto. Se il mio zaino potesse parlare, concluderebbe di non averne bisogno. Perché lui conosce anche tutte le parole del mondo, ma come negli amori più grandi, neppure un verbo gli servirebbe per fargli capire di essere arrivato in una spirale di vita dalla quale davvero nessuno dei due vuole uscire. Grazie. Diciamo, come sempre c'è anche una, insomma, un lavoro performativo che va, che alcuni poeti fanno e altri no, ecco, in questo caso Poetici Libri si concentra di solito più sulla scrittura, ma non possiamo frenare i poeti dal loro desiderio e voglia di performare, perché fa parte ormai della loro vita e del loro modo anche di essere e di vivere la poesia. Però diciamo, c'è un aneddoto curioso su questa poesia, perché questa qui, quando faccio gli slam, in realtà è performata in maniera molto più agitata, insomma, siccome ovviamente gli slam ci sono spazi belli ampi, io mi butto nel pubblico, l'incazzatura in gaelico la urlo forte in faccia a qualcuno, ed è capitato l'ultima volta alla semifinale regionale che, quando ho urlato questa incazzatura in faccia a una ragazza, lei si è alzata ed è scappata mentre performava. Diciamo che non è esattamente il modo per avere successo con una fanciulla, però diciamo si dovrà pure iniziare. Va bene, allora, in realtà io mi concentrerei sull'aspetto testuale, sì. Nel senso, visto l'aspetto performativo che è assai interessante, non è la stessa cosa ascoltare un poeta rispetto alla lettura, e la performance non sono due approcci diversi nei confronti della poesia. La poesia nasce come poesia orale, ecco, ma ovviamente noi in questo caso ci concentriamo sull'aspetto ovviamente della scrittura. E la tua scrittura è una scrittura, devo dire, parimenti valida, che prima di tutto va a così, fare veramente un lavoro di ricerca. Molti poeti orali ormai non si occupano neanche più di stampare un libro, ecco, sono poeti orali e basta. Ecco, perché tu hai deciso di fare un libro? Perché molti tuoi colleghi i libri non li fanno più, oppure fanno un CD, oppure girano un video. Perché un poeta orale performativo decide di fare un libro? Allora, diciamo che io ho cercato un po' di giungere ad un punto d'incontro tra l'aspetto più classico, tradizionale della scrittura e quello invece che ti serve per competere in alcuni poetry slam, dove, diciamo, se vogliamo parlare da un punto di vista di stile un po' più classico, potremmo anche arrivare a non definire prettamente delle poesie quelle che si sentono agli slam. Molti si avvicinano al rap, molti si avvicinano alla stand-up comedy, qualcuno non porta neanche versi, ma fa proprio dei monologhi. E però io mi sento un poeta diverso innanzitutto. E per me il libro è la via d'espressione più naturale di una poesia che sì, può essere performata, ma l'idea di slam e di performance arriva, tranne che in rarissimi casi, in seconda battuta. Cioè sono poesie nate innanzitutto per essere scritte, e lo si vede, credo, in maniera anche abbastanza chiara se si legge un po' qualcosa. Voglio dire, si trovano tanti echi di autori precedenti, si trovano tanti richiami, citazioni, come anche Max ha scritto nell'introduzione, ad altri poeti, a musica, a teatro, al cinema. Ecco, io sono dell'idea che la mia poesia prende molto dalla poesia classica, magari non si esprime in stili conformi all'idea di classico, ma è piena di autori novecenteschi, è piena anche di qualche ottocentesco, è piena di figure del cinema, e mi piace l'idea di reinterpretare in maniera originale quello che ho intorno, che di fatto la poesia è creazione, ma possiamo oggi creare qualcosa a cui nessuno ha pensato prima di noi. Probabilmente la chiave sta nell'interpretare quello che già c'è, farlo proprio ed esprimerlo e veicolare la propria espressione con l'aiuto di questi autori. Va bene, ti chiedo ancora di leggere una poesia, sì. Magari una poesia che ha a che fare col mondo del cinema, visto che è molto sì, presente nel tuo libro ed è una nota sicuramente distintiva del lavoro che fai, cioè sì. Di andare a, ecco, in qualche modo toccare, ecco, questo mondo, non sempre vicino all'arte poetica. Sì, allora io vi presento un testo che riflette un incontro che ho fatto a Napoli. Diciamo che molte delle mie poesie sono dei ritratti, cioè prendo spunto da persone con le quali ho parlato, che ho incontrato, e ne scrivo qualcosa che è un dipinto veicolato però da altre figure, incarnate da altri soggetti o con altre similitudini. In questo caso mi rifaccio al cinema, perché una sera ero a Napoli e ho conosciuto una ragazza che mi sembrava essere la versione reale di Amélie Poulain, del meraviglioso mondo di Amélie. E la casualità ha voluto che fossi diventato amico di una sua amica, e lo scorso maggio sono andato a Ginevra a trovare questa mia amica, e scendendo dal tram ho incontrato per caso di nuovo questa Amélie. Ma lei lo sa, lei lo sa. Lei lo sa. E, anzi, la raccolta è dedicata a lei, perché in effetti lei non ha voluto la poesia che le ho scritto, perché io ho avuto la prontezza di dirglielo e di passarle questo testo che lei ha rifiutato. E quindi a volte va così. E vi presento Amélie Poulain. Ho conosciuto Amélie Poulain appoggiata al bordo di un tavolino durante una perilingua allo Slash a Napoli. Ho conosciuto Amélie Poulain e la sua stessa espressione di meraviglia quando al cinema, in silenzio, lei non guarda i film, ma le emozioni altrui, con la stessa giacchetta leggera, sì, solo un po' più chiara, con le stesse scarpette, solo un po' più sporche, con i lacci fuori, con le stesse calze scure e lo stesso carré alla Louise Brooks, sì, ma con i capelli un po' più mossi. Ho conosciuto Amélie Poulain, la mademoiselle del quinto piano, quella che non si vede troppo spesso in giro, alla quale Blonde de Ver ha donato un talento da cabarettista, e Nino, che collezionava battutacce anziché fototessere buttate. Ho conosciuto Amélie Poulain, già, dopo la terza birra e la quinta sigaretta, perché è così che nel mondo leale lei sopporterebbe la solitudine, riderebbe sguaiatamente di un ragazzo che ci prova con la sua amica, e nel farlo si passa una mano fra i capelli. Gli darebbe dell'effeminato, sì, dell'effeminato per non ammettere che i gesti così teneri gli uomini oggi non li possono più fare, e che lei vorrebbe tanto uno della sua età che le parlasse passandosi una mano tra i capelli, scombinandoseli, e che dopo aver fatto l'amore le parlasse passandole una mano anche tra i suoi. Ho conosciuto Amélie Poulain, iperattiva, che faceva simpatici giochi di parole avec la lune et avec les lupes, e prendeva tranquillanti allucinogeni per illudersi di poter davvero calmare quel tono da bambinetta ingenua, quel suo dolce sussurro sensuale che mi ha scosso il corpo in fremiti quando mi ha preso a braccetto e ha cantato e ballato con me una canzone di Scherno, sì, per un nostro amico che si credeva Dio di fronte ad un militare che presidiava la strada. Ho conosciuto Amélie Poulain, sì, che come lei si è imposta di fare il bene altrui, nel suo caso far ridere la gente, e parlare, e ascoltare, e capire, perché di mestiere vuole fare la Croce Rossina, sì, ma mascherata da psicologa. Ho conosciuto Amélie Poulain, e le ho chiesto se avesse già il suo Nino, e come se ce l'aveva, e aveva anche un padre instabile, un lavoro da cameriera e una paga non soddisfacente, e persino uno che l'aveva chiesto di depilarsi l'intimo, perché su via, le brave ragazze francesine col caschetto non possono mica avere i peli sotto la gonna. E delle mani ossute che mi hanno accarezzato la schiena quando ci siamo salutati, mormorandomi né denaro, né amore e né il cielo, ma un inno a non cambiare mai da come sono e continuare a vivere e ad emozionarmi. Ma se non che, cara Amélie, l'evoluzione è il movimento, e quel dannato Raymond du Fayel non ti ha convinto a buttarti, giacché ognuno pare avere nella propria vita l'inalienabile, sacrosanto, immarcescibile diritto di vivere in un sogno, e di veder fallire la propria esistenza. Grazie. Bene, direi che lascerei qualche domanda al pubblico. Qualche domanda di qualsiasi tipo, suggerimenti, impressioni. Valgono anche quelli dei bambini, non è che i bambini sono... No, io mi chiedevo, quest'ultima cosa che hai detto mi è piaciuta particolarmente, i sì che fai, stanno sulla pagina o li fai, ci sono veramente? No, ci sono, ci sono. Fantastico, allora vai in più, nel senso da lettore mi piace questa cosa. Grazie. Sì, va, poi. Grazie, grazie. E mi piaceva in questa poesia dare l'idea comunque di circolarità, una cosa che mi piace fare anche quando provo a scrivere in prosa, l'idea del loop, cioè di partire da un punto, arrivare a qualcos'altro e tornare indietro. A me piace molto l'idea di ciclicità del tempo. Grazie a te. Altre domande, considerazioni? Farei solo una considerazione, nel senso, quello che ho provato mi è venuto in mente proprio il teatro napoletano. mi è venuto proprio nell'ascoltarti, nel vedere, cioè nel come interpretavi o leggevi, perché in questo caso l'hai letta anche se era stata di memoria, ovviamente, no? Però mi è piaciuto molto, mi è venuto in mente proprio Edoardo De Filippis. Io la ringrazio perché è un grandissimo complimento. Certamente c'è anche l'impronta della città, perché poi sì, sicuramente ho modo di viverla comunque studiando, lavorando, e quindi... No, anche come vorrei tracciare il profilo di questa persona che hai conosciuto facendo questi tipi di paragoni, però contestualizzandola nel momento, mi è sembrato questa la sua intenzione. Sì, sì, sì, assolutamente, sì. E poi un'altra cosa, tu hai parlato di ricreare o rivisitare. Io più che ricreare avrei pensato a un discorso di concetto di creatività, perché la creatività è l'espressione della nostra emotività, del nostro sentire. Quindi forse avrei usato più questo termine quando parlavi prima di creare invece, no? Di essere qualcosa di originale. Sì, diciamo, io vedo molto la commistione tra la mia creatività e quella dell'ambiente che ho intorno, cioè se comunque noi viviamo in un ambiente che ci condiziona e che non possiamo controllare, inevitabilmente forse la nostra creatività è essa stessa il grado in cui riusciamo a interpretare quello che abbiamo intorno. Grazie. Grazie a lei. Allora, io ricorderei il titolo dell'opera, Tutte le anime perse, di Antonio Di Lorenzo, della Strada di Babilonia. Vuoi aggiungere qualcosa? Se qualcuno è interessato a saperne di più, sia sul progetto della casa editrice, sia sul libro, potete andare, c'è il sito internet www.stradadibabilonia.it, e poi, insomma, noi siamo molto attivi sul territorio campano. Sto in amicizia, l'altro ieri. Accetterò allora. E quindi siamo molto attivi sul territorio campano. Se qualcuno di voi è interessato a questa attività, può seguire la pagina mia personale, quella della Strada per Babilonia, di Maria Pia Dell'Omo e anche della CASPAR, che è il collettivo campano di Slam Poetry, che si occupa di coordinare un po' tutti gli eventi che organizziamo. Benissimo, io ringrazierei Antonio Di Lorenzo con tutte Mazzini, le anime grazie perse, a te, grazie, a te. Grazie, mille. Grazie anche di essere venuto qui direttamente alla Caserta. E proseguiamo con un altro grazie. Autore a me caro, che è Bartolomeo Di Giovanni. Vieni pure qui con noi. Intanto Valentina Petrini sta, ecco, realizzando dei veri e propri ritratti, ecco, dei presenti, che è proprio qui in prima fila, e poi dopo ve li faremo vedere. Accomodati, sì, pure intanto. Chiamare. Accomodati pure. Allora, io Bartolomeo Di Giovanni l'ho conosciuto come molti autori in rete durante scambi liberi, ecco, email, telefonate negli ultimi anni. Conosciuto prima come filosofo, perché insomma avevamo in comune questa, ecco, formazione filosofica, e poi come poeta, nel senso che mi mandò il suo testo, ecco, dicendo appunto che era in corso una serie di presentazioni in Italia, e io l'ho letto con grande piacere in questo testo che ha un titolo secondo me felice, Fotosintesi itinerante. Poi ho veramente ritrovato una grande ricerca del linguaggio, un linguaggio sicuramente non consueto, ecco, un linguaggio che insomma fa trasparire in fondo la tua formazione, la tua attenzione, ecco, per il pensiero, la filosofia, il linguaggio stesso della, ecco, che ci appartiene, che è il linguaggio filosofico, Gadamer certamente, ma molto anche riferimenti ad autori, ecco, più recenti, un riferimento continuo anche alla liquidità, ecco, e ad altri concetti più o meno presenti, ma soprattutto un lavoro che secondo me è un lavoro onesto e ci si aspetta di solito da un poeta, ecco, questo, ecco, secondo me, almeno io come lettore mi aspetto da un poeta questo, al di là delle grandi e magnifiche scritture che si possano pretendere, io da un poeta come lettore mi aspetto che su quelle 50 poesie, su quelle 40 poesie, ecco, gran parte di questo lavoro sia frutto di una sua, ecco, per così dire, spontaneità e un certo abbattimento delle sue resistenze, delle sue difese. Quindi io scelgo, almeno nelle mie letture, in base a questo criterio. Altrimenti, ecco, qualsiasi scrittore, qualsiasi, ecco, burocrate potrebbe essere un poeta. Ecco, se non ci fosse, ecco, questa attenzione, ecco, questa, se vogliamo, anche fragilità, sensibilità, prima si parlava appunto in questo titolo appunto dell'opera, appunto dell'autore precedente. Allora, fotosintesi itinerante, ecco, nella tua definizione dici che questa fotosintesi è spiegata come una luce che costruisce che si costruisce nel cammino, insomma una sorta di formazione stessa del poeta e dell'uomo. È l'incontro del sole e della foglia, il miracolo del glucosio e dell'ossigeno, e quindi poi c'è il verde che è questo punto di sella. Due iperbole, prendiamo la luce, l'albero, le foglie, due iperbole poi si incontrano nel punto di sella. Lì è la vita e lì poi gira il nostro cammino, che io, diciamo, non amo dire il tempo lineare, ma il tempo è a spirale, circolare. Poi stasera sono doppiamente felice perché sono ritornato, lo scrivo nel libro. Io ho lasciato Palermo per amore a 32 anni e me ne sono andato a Napoli. Se mi dicesse, quando mi dicono, ti senti siciliano, napoletano, non rinnego le mie origini, la mia bellissima città, ma io ho lasciato per iscritto ai miei cari, quando non ci sarò più, portatemi a Napoli, perché lì è la mia terra. Il 29 giugno ho presentato il libro lì, andrò anche a Napoli all'Istituto Superiore per gli Studi Filosofici, poi avrò, quindi Napoli torna sempre e spero quanto prima di andarci a vivere. C'ho un altro amore che è bolognese, quindi ho detto vabbè, scendiamo, io con questi amori un po', ecco, l'itinerante, perché io credo all'amore per sempre, però ecco, società liquida, continuamente ci si separa, non ti amo più, quindi questo libro nasce da questa separazione. E 2015, quando Max poi mi ha contattato, facciamo l'evento il 27 aprile del 2016, ho detto vabbè, c'è tempo, le cose cambieranno, è arrivato immediatamente da dicembre a aprile. Non volevo accettare perché stavo male con la depressione, ho preso i psicofarmaci, lo dico, dobbiamo abbattere pure questo tabù, perché subito quando prendo l'antidepressivo sono pazzo. No, assolutamente, non sono bipolare, non sono, ho fatto tutti i test, ho questa depressione reattiva, fine di un grandissimo amore. Lì poi ho capito che veramente nella vita, quando 17 novembre, credo, per un'overdose di psicofarmaci, mi avevano bombardato, perdo i sensi, mi portano in ospedale. Lì ho visto la nullità della vita. Mi sono svegliato, ho detto, ma sto uomo, sto umanità, che tanto ci creiamo, poi ci crediamo poeti, filosofi, ingegneri, artisti, non ha, l'uomo non ha valore assoluto. L'uomo non sceglie tutto, non sceglie di nascere, non sceglie di morire. Sappiamo che c'è un giorno stabilito per morire, probabilmente non dovevo morire quel giorno. Se fossi morto non me ne sarei accorto. Poi ho visto il miracolo della vita, gioire giorno per giorno. Bene, sono qui, faccio il poeta. Perché non lo devo dire? Perché devo dire, ma no, c'è tutte queste sovrastrutture. Quando arrivi al capolinea che dici o si vive o si muore, capisci che puoi dire tutto quello che vuoi, tutte le cazzate che vuoi, perché tanto sono messe in scena. A Napoli ho presentato il libro a piedi nudi, sono messo in mezzo al pubblico, poi abbiamo ballato, abbiamo detto ragazzi divertiamoci perché tra un'ora non possiamo sapere se siamo qui, se c'è il Vesuvio, se erutta, quindi non fare mai progetti a lunga scadenza. Una cosa può durare per tutta la vita, quello è l'amare e il rispetto dell'uno verso l'altro, dell'umanità. Esserci continuamente, perché l'uno ha bisogno dell'altro, siamo tutti corresponsabili. Diciamo che per me Max è molto importante perché è stato quel Gesù Cristo che ha salvato il ladrone, tu oggi sarai con me in paradiso, quindi io arrivo dalla Campania dove avevo tutta la mia vita, scaraventato in una città che non riconoscevo più, arriva lui e dice fai a Palermo, ti do questa opportunità. Quindi da lì, quel 27 aprile 2016, ho ricominciato a credere alla poesia e a scrivere, perché ho bruciato un sacco di quaderni, un sacco di scritti. Tutt'oggi il mio ex tiene i miei libri, i miei scritti, la lettera che mi ha scritto Ratzinger, gli encomi, tutti i beni, perché ha detto che mi amerà per tutta la vita, al momento è così. Io ho detto, mi dispiace, non posso aspettare perché la vita è breve, quindi io comincio a fare l'itinerante. Bene, leggiamo qualche cosa. E volevo, pagina 169, su questo viale ho lasciato tutte le lacrime che ho potuto versare. Sullo specchio del mare ho visto la mia cicatrice, ho visto il male con espansione diretta sopra le vittime, ho guardato il luogo del vecchissimo peccato, la svelosia color bile, mi ha raccontato tutto, tornerò nel tempo scritto, troverò il pianto del taglio brillante, non temere Partenope. Il tuo figlio prediletto ti bacerà le mani, riprenderò le impronte che ho lasciato. La vita ha già contato le ore della distanza, di tutte le gocce che ho disperatamente stillato. E questo è Napoli, lì, Castel dell'Ovo, il 26 dicembre 2015, io stavo ancora male, vidi una foto con delle offese fatte a me, sai, quando due si separano non ci sono mai belle parole, no? A Castel dell'Ovo, bene, il 6 ottobre andrò a ritirare un premio a Castel dell'Ovo, quindi la ciclicità della vita. Il dolore mi ha permesso, la sofferenza, arrivare a toccare la morte, mi ha permesso che esiste una giustizia matematica della vita. Tanto fai, tanto ricevi. Quando qualcuno abusa la libertà, quella piccola parte di libertà verso un altro essere, poi la ciclicità, questo vortice dantesco, è il quinto canto dell'inferno, questo amore che torna sempre. Quindi poi qualcosa ritorna, ecco, un rumore è tornato. Quindi il tempo, ecco, le stringhe ce lo hanno dimostrato, anche Battiato prima lo ha profetizzato, ti solleverò quindi da questo tempo illusorio, perché presente, passato e futuro esistono tutti insieme. Ecco perché il poeta è anche rabdomante, è anche una persona che attraverso le parole riesce a captare qualcosa. E c'è una poesia di Max, che a me piace parlare sempre degli altri, che ha profetizzato delle cose, quindi poi li ritrovi nell'accadimento della vita. Quindi il poeta, Hermes gli dà questo sassolino, il poeta è anche l'interprete di una realtà linguistica, emozionale, poi la proietta al mondo e quindi diventa esperienza, diventa carne, diventa sangue, diventa dolore, ma diventa anche gioia. E andiamo a leggere un'altra cosa. Eccomi a guardare il mondo, seduto sul gradino della vita. Eccomi accanto l'unico amico che parla senza parole. Eccomi a sbalordire la gente che guarda la mia bocca, che osserva le mie mani, che scruta le mie vesti. Passa il ricco stupito dal mio pane. Mi scansa il maestro. Una signora mi sorride, mi addormento. Guardo il ricco disperato e solo, il maestro che grida di paura, la signora piange la notte, mi risveglio, qualcuno guarda frammenti di quel pane, non sa però se la notte ho pianto, se ho patito il freddo, se dal mio tetto è piovuto ancora, un sorriso, un complimento, non scalda la vita, non ripara dalla pioggia, non asciuga le lacrime. Se amate Charlot, prendetelo per mano. Ecco, quando amate qualcuno, io farei a parole, no, tu hai necessità, vabbè, vieni con me, andiamo, parliamone. Questo è il bello della vita, l'amarsi con praticità, la vivere le parole, portarle nella carne, nelle vene. Grazie caro, figurati. Io dunque ti, prima di lasciare la parola al pubblico, direi ancora due cose. Ad esempio, tu inizi la prima poesia con due versi che dicono già molto: col fuoco della sventura ho bruciato il lenzuolo. Sì, fuoco ho bruciato, sventura, lenzuolo, quindi questa sorta di avventura sventurata, questo lenzuolo bruciato, il lenzuolo d'amore, il letto coniugale, quindi questa sventura che ti ha dato la possibilità di bruciare questo lenzuolo è diventato cenere, è diventato niente, e da lì forse la resurrezione. Ho visto l'araba fenice in questo fuoco che trasforma. E un altro verso: e ancora voglio restare bimbo felice disegnato a matita. Uno degli altri versi che trovo significativi. E trovo anche un verso particolarmente, permetto di dire, felice. Cioè, nel senso esso stesso felice. In fondo le poesie che nella nostra, noi lettori, ecco, è questo che cerchiamo. Cerchiamo, ecco, oltre alla poesia cerchiamo quegli appigli all'interno delle successioni diversi che sono simili a questo. Cerchiamo appunto degli appigli in versi particolarmente intensi che possano condurre, ecco, la lettura, ecco, di un libro. Ecco, forse degli apici, ecco, certamente un libro non può essere fatto tutto di apici, ma questi apici permettono, ecco, di avere, ecco, quest'onda, ecco, di vivere quest'onda che è un libro di poesia. E, un altro verso prima di lasciare la parola al pubblico: la calunnia trasformiamo in minestra. Sì, perché la calunnia in Sicilia è anche una fa male, la calunnia cambia i connotati. È la cosiddetta erba del cabasiso, proprio un'erba spontanea, che cabasiso poi allude a qualcosa di... Vabbè, non lo voglio dire, all'uomo, ecco, non rompere i cabasisi. Lo dice anche Camillese. La calunnia, che cosa succede? Quando prendi questa calunnia, ti trasforma, ti cambia i connotati, ti cambia... Bene, nasce qualcosa, realizzi qualcosa, la trasformi, crei, e in un certo senso ci guadagni pure, ne fai minestra, cioè ne fa nutrimento, guadagni in proteine, carboidrati, quelli che sono, in nutrimento dell'anima. Quindi questo, in realtà, calunniatemi pure. Diceva Alda Merini che la calunnia è un vocabolo sdentato che quando arriva a destinazione mette mandibole di ferro, vero, ti può strappare, ma allo stesso tempo, cambiandoti connotati, ti rispecchi con una parte che magari emerge proprio lì dove hanno fatto quel foro, quel buco per far uscire il vecchio e arrivare il nuovo. Merini mi è tanto cara, a me, Max lo sa. Lo sappiamo, un rapporto molto stretto anche di ricerca su Alda Merini. Io chiederei al pubblico se avete delle solite suggerimenti, domande, o semplicemente osservazione rispetto a quello che ha detto Bartolomeo Di Giovanni. Non fate caso alla mia autodifesa, perché sono timidissimo, sto scoppiando, non so se si nota questo rossore in viso, però cerco di vincerla, di gesticolare molto per darmi coraggio. Io penso, riguardo le tue osservazioni su Napoli, sì, mi è piaciuta molto l'idea della descrizione di flusso e della necessità dei rapporti solidali umani, sì, messi poi in relazione con l'idea di sventura e di fuoco nei primi versi del libro, perché ecco, forse un tratto che sicuramente avrei notato, che è proprio tipico di Napoli, soprattutto dei suoi strati più bassi, è questa idea di continua solidarietà nelle sventure e nei problemi degli altri. Guarda, io... Diceva Pasolini che Napoli è l'ultima metropoli plebea che esiste. Sì. Però secondo me, per descrivere proprio l'idea che c'è di comunità e di condivisione nella città di Napoli. Io poi parlavo per esperienze personali, ho fatto dei progetti, ho girato per le scuole della sanità di Scampia, sì, insomma, le poste. Io ho insegnato a Scampia, adesso quindi... faccio il magazziniere a Roma. Ho fatto il lavacessi pure, quindi conosco la realtà di Napoli, e c'erano giorni che me ne andavo nei Vasci, proprio lì, a fare amicizia con le persone. Ho conosciuto delinquenti, ho conosciuto chi aveva la refurtiva, ma gente di una intelligenza, di una intuizione, che poi paragonavo i colleghi insegnanti a queste persone, e io dicevo, beh, i deficienti sono siamo noi, non questi che hanno una matematicità con la vita, ti sanno spiegare tutto il destino, il cosa accade, quello accadrà così. Quindi la bellezza di Napoli è questa. Quindi mi raccomando, quando schiatterò, portami a baciare a Napoli. Sono altre osservazioni, altre cose? La mia amica Paola è venuta da Treviso con altre amiche, e lei mi sta organizzando un tour a Treviso, a Trieste, andremo in Slovenia, andremo da... Vedo che la dimensione del viaggio non manca a questa puntata di Politici Libri, anche ricorrere anche di una città come Napoli, che ci è molto cara. Ti farei un'ultima domanda, sì, un'ultima osservazione. Insomma, perché poeta scalzo? Ma vedi, a parte che... Perché proprio Bartolomeo Di Giovanni dice, Theo John, che è anche il suo nome, per così dire, d'arte su Facebook, scalzo, sì, 44 è la misura. Quella sera un mio amico, il primo fidanzato del mio ex, cominciamo a parlare, abbiamo fatto amicizia nel 2016, volevo chiedere un po' con chi avesse avuto a che fare, insomma. Poi sono scalzo così, ma che piede, che scarpa porti, che numero tiene? E io ho detto 44, beh, ci scrivi scalzo 44, cioè, perché tu ci senti proprio la terra, la vita. A me piace camminare a piedi scalzi. Poi a volte ho fatto anni di meditazione, queste cose qui. Poi capita, spesso capitava a Palermo d'estate di camminare per il lungomare a piedi scalzi, quindi c'è questo rapporto col piede, non fetish, questo rapporto intimo col piede, perché lì è l'impronta che lasciamo. Noi non dimentichiamo, quando ci portiamo indietro, quando ritorna il passato, in realtà noi vediamo tutte le impronte. Se sono sulla terra avranno germogliato qualcosa, sulla pietra ci sarà scritto qualcosa, quindi l'uomo lascia sempre qualcosa, pur non avendo valore assoluto. Bene, io ti ringrazio, grazie a te, di Giovanni, per fotosintesi itineranza. Ritrovate nel nostro scaffale di poesia. E sono felice di passare anche la prossima poetessa, Valeria Bianchimian. Prego, accomodati dove, al lato che preferisci. Un libro che in parte già conosco, che abbiamo presentato, che è anche al centro di un'attività performativa di Valeria, che dura già da forse qualche anno, penso. Non so, sì. In qualche anno è stato pubblicato il libro? Favole svelte è stato pubblicato nel 2015, però parte dal blog del 2014. Ok. Sì, in realtà poeta mi fa, cioè mi fa nel senso che la poesia è, direi, un 20% della mia scrittura, potrei dire. Cioè, nel senso che posso approfittare per parlare un po' di una novità. Sono molto contenta perché ieri ho firmato due contratti per i libri nuovi. Allora, uno è, io di mestiere faccio la psicoterapeuta, mi occupo di gruppi e sono psicodrammatista, per cui la performance probabilmente parte da ben prima del discorso Favole svelte, nel senso che mi sono formata come psicodrammatista facendo anche teatro di improvvisazione per diversi anni. Quello che è che ci sono dei rami, insomma. Allora, uno è la scrittura del mio lavoro, quindi del mio mestiere, quindi i vari blog, sono redattrice di Psico Online, prima di Psychiatry Online, mi occupo di tematiche legate al mondo contemporaneo, di genitorialità. Infatti qui avevo presentato un libro sulla genitorialità che abbiamo scritto in 30, che è Psicosociologia della genitorialità, è un bel tomo, e altri testi legati alla genitorialità. Poi c'è la poesia, che però, diciamo, Favole svelte contiene, ecco, perché si tratta di un libro più che altro di filastrocche e di fiabe per bambini, perché quando sono rimasta incinta di mio figlio ho fatto il concorso per entrare in ASL all'ottavo mese e, insomma, sono tornata alla libera professione, per cui ho dovuto un po' rimettermi in gioco. In quell'anno in cui lui è nato, io quindi sono stata a casa, l'ho accudito, eccetera, ho aperto un blog e ogni giorno mettevo un mio disegno, perché poi qui ci sono anche le mie illustrazioni, e una filastrocca scritta, a volte ispirata proprio da quello che lui faceva, altre volte, insomma, no. quello che quindi che Favole svelte contiene sono alcune poesie, ma le poesie le sto raccogliendo adesso, in realtà, quindi quelle che ho scritto dal 2014 in poi le sto raccogliendo per poterle pubblicare. E poi c'è il romanzo, nel senso che io è un anno che aspetto di pubblicare questo romanzo, ha avuto una storia un po' difficile, adesso finalmente in ottobre esce e si intitola Non è colpa mia. Ho firmato ieri, l'uscita è prevista per diciamo, i primi di ottobre, intorno al 10 ottobre, e lì poi mi baso su delle storie di pazienti che mi hanno davvero colpito nel tempo, per cui una donna tossicodipendente particolarissima, i miei anziani Alzheimer con demenza, perché mi occupo di famiglia adesso, anche caregiver di pazienti con demenza, ed è una storia molto nera, come piace a me, anche perché mi aspetto noir, anche della poesia mi attrae, come forse anche per deformazione professionale. E ci sono anche delle storie legate al carcere, in cui ho fatto volontariato per un po', quindi ci sono delle figure, delle situazioni legate comunque alla mia esperienza, ecco. Io ritornerei sulla poesia, che è quello che in realtà ci preme di più. Va bene. E abbiamo, diciamo, in realtà questo è un libro di poesie, tra l'altro un libro insolito perché, diciamo, ci sono due canali che si intrecciano, c'è un canale, per così dire, di filastrocche, sì, effettivamente per bambini, ma in realtà sono anche filastrocche per adulti. Sì. Perché quindi, insomma, è una scrittura che va, che riesce a toccare sia un pubblico eterogeneo. È un libro, secondo me, estremamente interessante, anche un po' imprendibile, un po' sfuggente, se vogliamo, di prima acchito, no? Perché subito non è evidente se si tratti di favole, di poesie o di filastrocche. In realtà probabilmente tutte le cose assieme, forse, ed è anche la possibilità che ci dà questo libro. La cosa migliore, secondo me, è proprio ascoltarti, se vuoi. Sì. Sì, infatti aggiungo solo che in questo senso è vero, perché io infatti il primo anno ho avuto molta difficoltà a far capire alle persone che cosa fosse. Adesso che forse lo porto in giro da un po', che ho fatto i laboratori per i bambini associati alle filastrocche per bambini, lo vendo ai genitori, agli insegnanti dicendo leggetelo voi e poi fatelo leggere ai bambini, e che lo porto come performance magari nei Poetry Slam in giro, adesso riesco un po' a farlo passare come cosa mercuriale, diciamo, esattamente come hai detto tu. Vi leggo una filastrocca dedicata a un mio paziente. Storia dell'uomo a pezzetti. La storia dell'uomo fatto a pezzetti, che tutti i ruoli gli andavano stretti, me l'ha raccontata la nonna del re e adesso io voglio narrarla anche a te. L'uomo giocava al cattivo perfetto, subito dopo mutava il suo aspetto, con un vestito da angelo buono sceglieva parole un po' sottotono. A tutti piaceva, forse a nessuno, ma quando si ruppe ciò che era uno, da solo dovette i propri frammenti cucire, incollando 32 denti. Poi, siccome stamattina, cioè oggi pomeriggio in realtà, mentre venivo qua, ho trovato su una panchina della metro Moby Dick, e me l'ho preso perché non penso che nessuno, so, poi mi sono chiesta qualcuno tornerà a prenderlo, probabilmente no, ed è anche un libro, un testo che sto usando per uno spettacolo, un reading teatrale con Ivo De Palma, incentrato sul tema dell'ombra, dell'inconscio, il lato oscuro, che si intitola Dialoghi con la bestia. Allora vi leggo questa che avevo dedicato proprio a questo testo, e che è La morte dei grandi pesci. La morte dei grandi pesci è un guizzo di sale rosso che va tingendo e brucia gli sguardi gonfi di noia di un acab, uno qualunque. La morte dei grandi pesci è oceano a misura d'uomo. Per oggi abbiamo finito, dice il vecchio capitano lavandosi mani e volto. È stanco e più non comprende perché l'anima gli dolga come arpione dentro il petto. Ora un nuovo sole rosso, più rosso del sale, sorge dentro il nero del suo niente. Per restare in tema, un altro paziente mi ha ispirato questa qua. I piedi di Angelo. Si dice che il puer eternus, no? L'aspetto proprio infantile dentro di noi che non cambia mai, secondo Hillman, è rappresentato, James Hillman, un junghiano importante, è rappresentato simbolicamente anche dall'idea di sanguinare, quindi di avere i piedi e le mani sanguinanti, un po' come il Cristo, no? Ecco, ovviamente che è proprio si connette all'immagine del puer eternus. Allora, feriti, fascianti, doloranti sono i piedi del fanciullo eterno e sono gli stessi piedi dei santi. Sono estremità che nell'inverno sul bianco della neve fan la scia, dimenticando scritte sulla via. Possiedo ali candide e solari, sono Icaro in volo e non ho pari, ma se sulla terra tu mi metti, io mi trascino a fatica, lento, divento preda del mio tormento, maledetto sono tra i maledetti. Poi, vado avanti? Una psicoterapia, tanto per restare. Poi sembra che ho scritto solo poesie o filastrocche sulla psicoterapia, ma oggi sarà che mi si sta connettendo qualche neurone fa sinapsi, quindi. che senso ha questa professione, che si nutre di dolce lentezza e di attenzione, fluttuante sonnolenza in pallone, solcando i mari dentro la brezza, e in sogno cozza sopra mille dettagli vaganti, erranti errori, forse anche sbagli. Che senso ha, eh? Mi chiede a sfida. Nomina il coach, il dio guru e i santi, che della vita gli sono stati guida alla riuscita, mica come me. Storia infinita, dalle 2 alle 3, delirio ad fatica, staffetta. Il signor X vuole che io levichi senza dolore un vecchio ego duro e stitico con il mio botulino psichico. Io lo guardo nel silenzio spesso, tagliando nebbie, sciogliendo il muro. A volte allora, è dura la mia professione. La tua scrittura quindi si muove in questa direzione e prima di chiedere insomma, un'opinione al pubblico, un intervento del pubblico, c'è una poesia che tu hai portato, visto che sono a te, alla produzione dei poeti. Una poesia che hai portato spesso all'interno degli spettacoli, poi per esempio, che si intitola L'uomo con la bobba sulla fronte, è stata messa anche in musica. Sì, cioè, che, in modo così diciamo. Che trovo sia meritevole di attenzione, di lettura. D'accordo, non la canto, evito, anche perché che ti risparmia. Però ve la... Ha una sua musica. Ha una sua... E parla di un amore, ecco appunto il discorso delle coppie, le relazioni, insomma ci si incontra, non è che bisogna essere perfetti per innamorare, uno ambisce a che poi in realtà, no, superata la prima fase dell'idealizzazione. Ma quindi questo uomo con la coppa sulla fronte è... No, è l'amore in generale, non è la fase dell'innamoramento che già sa. Ma volevo avere lo scoop che tu l'abbia veramente incontrato. Non conosco nessuno con la coppa sulla fronte, ho pensato dove... Cosa poteva essere? Non lo so, mi è venuto in mente il personaggio, ma non ho. Allora, l'uomo con la gobba sulla fronte ha una testa che pare un mastodonte, dorme sempre sotto il ponte, esce solo notte fonda, scappa appena scatta l'ora della ronda. L'uomo con la gobba sulla fronte fa di nome Amilcare Caronte. Sono nato dentro un monte, sono brutto, sono orrendo, con la gobba sulla fronte il mondo offendo. L'uomo con la gobba sulla fronte, è un grande pensatore, lui pensa senza sosta, medita, associa, coglie i nessi alla fonte, intuisce tra le righe e capisce quel che costa una vita, con la gobba sulla fronte. Il giorno che incontrò una donna senza naso, pensò, son benedetto io, sia benedetto Dio, che in questa vita m'offre il più lucente raso. Ciò che tu chiami scempio è vero amore mio, orrore innamorato che non nasce per caso. È anche un po' un elogio, insomma, all'amore in generale, al di là delle barriere di qualsiasi tipo. Voilà. E... Bene, favole svelte, avete delle così, considerazioni? Io volevo chiederle questa, però lei già come? L'ha letta. No, volevo chiederti questa poesia che hai appena letto, sì, perché mi era rimasta impressa da tempo. Sì. Dal treno di quando andavamo a Genova. Sì, sì, sì. Altre cose? Mi ricorda molto Patrizia Valduga. Un riferimento, sì. Patrizia Valduga, lei è un po' la tua parte antisetica. Sono un po' sorda. Patrizia Valduga fa Patrizia un riferimento a me piace un sacco, l'ho conosciuta l'anno scorso a Napoli, tenerissima, ci siamo abbracciati, ci siamo raccontati un po' di cose. Patrizia è una donna di dolore, intelligentissima, però riesce a fare della sua vita teatro. Ho notato questo in te, una psicologa però che conosce il dolore, sì, che viene un po' dal dolore. Sai che si chiamano i guaritori feriti, no? Cioè sì, tutto quel discorso, ecco. Non puoi fare questo mestiere. Poi hai la mimica delle labbra, ho visto la Valduga scienza in questa maniera, quindi grazie. Veramente sono, mi sei piaciuta molto, veramente tutti bravi sono. Grazie. Altre cose? Allora, ricordiamo il libro che è Favole Svelte, ha una prefazione di un musicista. Possiamo dire qualcosa? Certo. Ma sì, ho chiesto a Federico Sirianni all'epoca di fare la prefazione perché alcune di queste filastrocche, alcune ovviamente, non tutte, ma si presta, sono appunto musicali. Tra l'altro recentemente mi è capitato di scrivere dei testi musicali per Lele Piras, si chiama, adesso uscirà il primo video penso tra poco, e nel senso che il discorso ballate, ecco, io non, insomma, la musicalità è insita, ecco, dentro questo, certo, tipo di filastrocche. Le filastrocche si prestano a essere messe in musica, infatti, la rima, eccetera. Ottima idea. Allora, ricordiamo il libro Favole svelte di Valeria Bianchi Mian, edito da Golem Edizioni. Intanto aspettiamo anche il romanzo che uscirà non ad ottobre. Non è colpa mia, sì, è già prenotabile, se qualcuno volesse. Anzi, diciamo che non è colpa mia. E parte dal presupposto che appunto chi non ha colpe alzi la mano, questo è il discorso. È un drammatico nero, una storia di famiglia con demenza e misfatto. Lavorando con gli anziani dementi, posso dire con demenza e Alzheimer soprattutto, e con le famiglie, in questo senso mi sono chiesta cosa succederebbe se, non so, qualcuno compie un misfatto e se ne dimentica. È una trama ancora poco esplorata perché ci sono già dei film, dei test su questo argomento, ma l'ho fatto a modo. L'aspetteremo. Intanto ti ringraziamo, grazie a Valeria Bianchi Mian, ricordiamo il libro. Intanto chiamerei Valentina Pietrini, che è qui con noi, vieni pure qui con noi, intanto ha disegnato fino ad ora, mentre gli altri parlavano, lei in maniera indefessa, intanto mi hanno fatto dono di un ritratto che io voglio far vedere, lo porterò in giro con grande fierezza, questo sono io, grazie Valentina, e poi ha intanto proprio rappresentato, penso, attraverso il suo lavoro alcuni autori che sono qui presenti. Quindi prima di tutto grazie per questo lavoro artistico estemporaneo, e lo facciamo vedere prima di tutto, che questo. E farei un applauso a Valentina. Allora, prego, spiegalo pure. Ha sintetizzato un po' tutti e quattro gli ospiti, ci sei tu con i capelli, io col mento lungo, quindi questo sarebbe tutto, e poi è la musa ispiratrice. Perfetto, quindi in questo, ecco, figura ritroviamo tutti gli autori presenti, che ed è un'idea alla libreria, ed è un'idea, devo dire, originale, che rimarrà qui in libreria, è una piccola, ecco, collaborazione e partecipazione. Intanto io ringrazio tutti perché trovo che sia stato un bellissimo pomeriggio assieme, anche di dialogo, cosa che manca in poesia e che si è sviluppato in maniera più spontaneamente proprio qui. Ricordo i libri, che sono questi, A quale ritmo, per quale regnante, di Riccardo Olivieri, edito appunto da Passigli, che ringraziamo, Antonio Di Lorenzo con Tutte le anime perse, che è appunto stato qui con noi. Poi abbiamo avuto Bartolomeo Di Giovanni, fotosintesi itinerante per Rupe Mutevole Edizioni, e infine Valeria Bianchi Mian. Tutti i libri sono disponibili in libreria, sul tavolo e nello scaffale di poesia. Grazie a tutti e buona serata. Scusami. Tra l'altro c'è qualcosa da bere, se vi volete fermare c'è qualcosina, sì, per rinfrescare. Questo lo diamo. Lo diamo, potete dare alla libreria. Sì. A Luca, se sì, l'avete conosciuto, ve lo presento. No, te lo presento. Te lo presento. Vi chiedo scusa, ma io ho una famiglia che mi sta correndo dietro, ma fate piacere a conoscere di Prada. Di rivederti. Davvero. Ma grazie, è stato un piacere conoscere. Sentiamo quando vuoi. Grazie ancora, la prossima volta. È stato un piacere conoscere. Arrivederci. Il cellulare, per favore.